FM 101. It's Radio Milan International. 101 Stereo. Radio Milan International. Radio Milan International Hit Parade. Insomma, se siete amanti della radio, avrete sicuramente sentito la notizia in questi giorni, purtroppo, della scomparsa di Angelo Borra, il fondatore, insieme al fratello Rino e ai cognati, di Radio Milano International negli anni 70. E allora, visto che il sottoscritto ha fatto radio proprio a livello locale per puro divertimento, passatempo, mi è sembrato giusto dedicare 15 minuti, che saranno solo 15 minuti di musica, per l'appunto la memoria di Angelo Borra. Premetto che non sono uno speaker importante, quindi non sentirete il solito speaker da network. Benvenuti a tutti, buona serata. Così no, faremo una radio proprio come si faceva agli albori di Radio Milano International, quando c'era appunto lo speaker o disc jockey con cadenza vocale, dialettale, che commetteva degli errori, ripetizioni nel citare appunto alcune cose, oppure semplicemente ad annunciare i dischi li sbagliava completamente. Questo perché penso che sia stato lo spirito iniziale appunto di Radio Milano International. Quindi questa sera sono sceso in cantina, mi sono detto mettiamo su un paio di dischi per ricordare Angelo, che si può dire è stato anche il padre di noi disc jockey da radio locale, che abbiamo lavorato, parola grossa, abbiamo trasmesso per puro passatempo e per passione, magari nelle radio locali, perché lo ricordano tutti i personaggi importanti. Però io, è una domanda che mi chiedo, quando si trovò in difficoltà, i personaggi importanti gli avranno voltato le spalle oppure gli saranno stati vicini? No, perché è facile quando scompare una persona, sono tutti amici, no? Scrivono tutti sulla bacheca, ci manchi tanto, eccetera eccetera, però bisogna vedere se poi indubbiamente così è stato veramente, oppure insomma se ne sono fregati la sua situazione. Comunque vuole essere una trasmissione in omaggio, in memoria di Angelo Borra. E allora ragazzi, cosa ne dite di ascoltarci appunto una canzone che probabilmente lui stesso annunciò in quegli anni meravigliosi, ovviamente su Radio Milano International. Radio Milan International 101 Stereo. gonna next dance to you. Ovviamente è sbagliatissimo il titolo, ma come vi ho detto in precedenza, qua non c'è uno speaker da network che sta parlando, non siete su un radio DJ o eccetera eccetera, siete su Spreaker Radio, la vera libertà, la vera radio libera, come era per l'appunto Radio Milano International negli anni 70. Stiamo dedicando questo speciale proprio a Angelo Borra, insieme ai miei ricordi del panorama radiofonico locale, dov'è che per qualche anno mi sono divertito per passatempo a trasmettere. Mi ricordo che si andava in onda, anzi, il nostro editore, parlo di Radio Inchiesta Vigevano, era talmente gentile che ci permette di scegliere tutti i dischi che volevamo. Quindi andavamo là, sceglievamo i dischi proprio come si faceva nello spirito iniziale di Radio Milano International. Andavamo là, sceglievamo il vinile, lo mettevamo in onda, si poteva spulciare dal passato, presente, eccetera, eccetera. Ecco, questo vi vorrei dire, no? Che per me, appunto, Angelo Borra non significa solo il grande editore di Radio Milano International, ma anche qualcos'altro. Insomma, vedendo vecchi documentari, perché io ero molto piccolo in quel periodo, si vedeva proprio la radio fatta così. Lui trasmetteva da casa sua con suo fratello, un po' come si faceva, insomma, anche negli anni 90, anche nei primi anni del 2000, nelle piccole radio di paese che ora sono completamente morte, raso al suolo, tutto in mano Mediaset, si faceva così: se prendeva un disco in uno scaffale, ti piaceva, bene, lo metti in onda. Ecco, questo è il mio ricordo più grande di Angelo Borra, perché lui e suo fratello e altri ragazzi dell'epoca ci hanno regalato veramente la creatività della radio italiana, dell'FM. Poi tutto si è modificato, oggi tutto è praticamente uguale, no? C'è il solito computer che programma, cioè uno non può neanche più richiedere un disco. Comunque forse è l'evoluzione della radio. Noi ricordiamo Angelo Borra in questo senso, grazie alla sua creatività, al suo intuito di aver creato la prima radio locale italiana. Poi sono seguite le altre. E visto che si parla sempre di Radio Milano International, sempre dedicata a Angelo, non potevamo non mettere in scaletta non solo la musica, ma anche che cosa? Ditelo voi, i jingle. On 101 in full FM stereo, this is Radio Milan International. Insieme ai jingle partivano anche le canzoni, come in questo caso ho commesso un errore, c'è la canzone che parte proprio in questo istante, vedete? Non bisognava andare in onda e divertirsi come sto facendo io. Questo è il ricordo più bello che ho di Angelo, guardando i documentari Rai del tempo, di questi ragazzi che si divertivano a fare radio. Con i Village People purtroppo concludiamo questo speciale, più che uno speciale è un ricordo alla memoria appunto di Angelo Borra. Ho voluto dire anch'io la mia con molta semplicità, non sono una persona importante, non ho mai lavorato in un network, ho lavorato solo, ho trasmesso per hobby e per passione, sottolineiamolo, in una radio locale, Radio Inchiesta Vigevano, appunto negli anni, fine anni 90 inizio 2000. E mi sono sentito veramente tirato in causa dopo la morte di Angelo, che ho voluto appunto lasciare il mio ricordo, perché anche grazie a lui ho potuto trasmettere questa radio locale, ho potuto andare io a selezionare il disco, dire mi faccio la mia scaletta, oggi mettiamo su questo vinile, no, ho cambiato, mettiamo su un altro, proprio come era nello spirito iniziale di Radio Milano International. Grazie a tutti per avermi ascoltato, io mi scuso ancora se non è stata, diciamo, una bella diretta doverosa come fanno i disc jockey da network, mi sono principalmente sentito tirato in causa, anche perché ho avuto anche qualche piccolo scambio epistolare con Angelo, proprio soprattutto saluti, si parlava di radio, un paio di messaggi, ma aveva richiesto lui l'amicizia su Facebook, forse era attratto dalla musica che anch'io amo, che anche lui avevo capito che amava, cioè la disco music. Vi ringrazio tutti, e anche la musica black degli anni 70, soul, funky, R&B. Sì, vi ringrazio tutti per l'attenzione e ancora una volta rinnovo le mie condoglianze a tutta la famiglia di Angelo Borra. Ciao Angelo, riposa in pace, come la tua Radio Milano International, sei sempre nei nostri cuori e sarai sempre immortale. Ovviamente programma fatto in presa diretta, non ho segnato niente, scusatemi. Ciao a tutti e ciao Angelo, riposa in pace. FM 101, it's Radio Milan International. 101 Stereo. Radio Milan International. Radio Milan International, Hit Parade.